Non ascolto più nulla. Almeno dico la volontà d'Asteria. Ella è mia figlia. Non vi partite, Asteria, che si tratta di voi. Cieli, se la consente, io son perduto. Di me? Come si turba il traditor confuso? Il nostro nemico. Ai, che nel dirlo, avvampo di rossor, arto di sdegno. D'Andronico col mezzo chiede le vostre nozze e m'offre in premio e libertade e pace. L'empio sa pur che premo d'essergli debitor sin della vita. Nome? Che dirà Asteria? Figlia, tu non rispondi. Io mi credea vederti accesa di dispetto ed ira ad odiar Tamerlan quant'egli t'ama. Ma invece tu vacilli. Vendichiamoci almen di quell'ingrato. Signor, or che il Tartaro rende la corona d'Andronico, il superbo con la fortuna cangia cuore e affetto. Venuto il dono di quel suo gran nemico, si cede in premio di mie nozze Irene. Or l'ambizione un nuovo amor lo chiama, operar non già per noi, ma per se stesso. E ciò è vero! Crude! Tacer non posso! Asteria, al vostro amante non conviene così ingiusto rimprovero. Sappiate che ho chieste queste nozze col timor d'ottenerle. Prince, Asteria è mia figlia. Io rispondo per lei. Ditegli chi mia figlia bramo maggiormente per tormentarlo, che lo sprezzo, l'oltraggio e lo rifiuto. Ma, signor, la repulsa vi può costare il capo. Non più, vi dissi, andate. La risposta rendete al mio nemico. E la risposta è questa. Il rifiuto d'Asteria e la mia testa.